Bibbia Martini, primo libro dei Re 5 Iram da Salomone degli operai, che taglino il legname per la fabbrica del Tempio, ai quali Salomone dà il vitto. Numero dei legnaiuoli, dei facchini, dei tagliatori di pietra, e dei loro soprastanti. Oltre a ciò Iram re di Tiro mandò suoi ambasciatori a Salomone, avendo udito come gli era stato unto re in luogo del padre suo, conciosia che Iram era stato in ogni tempo amico di Davide. E Salomone mandò i suoi ad Iram, e gli fece dire, «E a te noto il desiderio di Davide mio padre, e come egli non poté edificare la casa al nome del Signore Dio suo a motivo delle guerre, che egli sostenne da tutte le parti, fino a tanto che il Signore abbatté a piedi di lui i nemici. Adesso poi il Signore Dio mio mi ha data pace da ogni parte, e non avvi avversario, né accidente sinistro. Per la qual cosa io ho in animo di fabbricare un tempio al nome del Signore Dio mio, conforme il Signore ordinò a Davide mio padre, dicendo, il tuo figliuolo, cui io surrogherò a te nel tuo trono, egli fabbricherà la casa al nome mio. Ordina dunque, che i tuoi servi taglino per me dei cedri del Libano, e i miei servi saranno insieme co' tuoi servi, e ti pagherò pel salario dei tuoi servi tutto quello che domanderai, però che tu ben sai, che non vuo alcuno del popolo mio, che sappia tagliare il legname, come sanno quei di Sidone. Avendo adunque sentito Iram le parole di Salomone, ne ebbe gran piacere, e disse, «Benedetto sia oggi il Signore Dio, il quale ha dato a Davide un figliuolo sapientissimo, per reggere un popolo così numeroso». E Iram mandò a dire a Salomone, «Ho inteso tutto quello che tu mi domandi, io farò tutto quel che tu vuoi riguardo ai legnami di cedro e di abete. I miei servi li porteranno dal Libano al mare, e io ne farò formare delle fodere sul mare, per trasmettergli al luogo che tu mi additerai, e ivi fi farò posare, e tu li farai ritirare, e mi darai quello che mi bisogna per il vitto della mia casa». Iram pertanto dava a Salomone del legname di cedro e di abete quanto egli ne voleva. E Salomone dava ad Iram 20.000 cori di grano per il mantenimento della sua casa e 20 cori d'olio finissimo. Tutto questo dava Salomone ad Iram anno per anno. E il Signore diede a Salomone la saggezza, conforme gli avea promesso, ed era pace tra Iram e Salomone, e fecero tra di loro alleanza. E il re Salomone scelse degli operai da tutto Israele, e furono comandati 30.000 uomini. E mandavagli al Libano a vicenda, 10.000 ogni mese, talmente che per due mesi se ne stavano alle case loro, e Adoniram era preposto a questa comandata. E avea Salomone 70.000 uomini, che portavano i pesi, e 80.000 scarpellini sulla montagna, senza contare quelli che presedevano a varge lavori, in numero di 3.300, i quali dirigevano la gente e i lavoratori. E il re comandò che si prendessero pietre grandi, pietre di pregio per fondamenti del tempio, e le riquadrassero, e le tagliarono gli scarpellini di Salomone e quelli di Iram. E quelli di Giblos lavorarono il legname, e le pietre per la fabbrica della casa. Note, 5,1. Iram re di Tiro mandò i questi ambasciatori furono mandati subito che Salomone fu unto re, ma la storia sacra ne parla in questo luogo, perché dal re di Tiro chiese e ottenne Salomone i materiali per la gran fabbrica del Tempio, di cui si comincia adesso a parlare. 5,7. Benedetto. Il Signore Dio, e due antichi storici presso Giuseppe raccontano che questo re non solo adorava Baal, Astarte ed Ercole, ma aveva eretto a questi falsi numi e templi e statue e altari, onde non possiamo attenerci al parere di quei goli interpreti, i quali suppongono che Iram conoscesse il vero Dio e lo adorasse. Al più possiamo dire che egli, come molti altri gentili, adorando gli dei del proprio paese, non lasciasse di rispettare anche il Dio d'Israele, del quale ebbe notizia mediante la stretta alleanza con Davide. Così si dice che temerono il vero Dio i Filistei. I Reg IV e Dario, Don. 6, Lo. Punto e Seleuco, Vers. 2 Maccab. 3, e gli Assiri V2. Regione 17. 32, 5,9, per trasmettergli al luogo, ecc. Al porto di Gioppe il più vicino a Gerusalemme. Mi darai quello che mi bisogna. I Tirii, i Sidonii abitavano un paese sterile e ingrato, e le loro ricchezze se venivano tutte dal commercio e dalla navigazione. GL Israeliti erano padroni dei migliori paesi all'intorno, onde Iram chiede a Salomone i grani e gli oli necessari per il mantenimento di sua famiglia. Vedi Atti 12. 20. Vedasi. Che anche Iram, come Salomone, manteneva tutti i suoi domestici e servitori e ministri, non usando in che tempi di pagare i servitori in denaro. 5,11. I 20 cori d'olio. Il Siro o l'Arabo e i LXX supposero che debba qui ripetersi la voce mille, che nelle parole precedenti, onde leggono, i 20.000 cori di olio. 5,14. E mandavagli al Libano e... Questi erano ebrei destinati a scavare dal Libano e lavorare le pietre per la gran fabbrica, però che dal Libano fu tolto non solo il legname, ma anche le pietre. 5,18. E quelli di Giblos lavorarono e Giblos detta anche Gebal è la città conosciuta negli scrittori profani sotto il nome di Biblos. I gentili, che concorsero alla fabbrica del Tempio del vero Dio, erano figura dell'affetto grande, con cui gli stessi gentili dovevano un di concorrere alla formazione della Chiesa di Gesù Cristo.